Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. Ore 12:30, anche oggi un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Bentornati e bentornate in questa nuovissima puntata di inizio settimana di Minerva. Come sapete, questo è il format di approfondimenti culturali che vi tiene compagnia per una mezz'oretta, quindi da mezzogiorno e mezza fino alle 13. Io sono Rachele Copparoni in regia e in direzione generale di Minerva, appunto il format di approfondimenti culturali in cui stiamo un po' insieme fino all'una, parliamo di cultura, parliamo di musica e facciamo una bella chiacchieratina insieme. Prima di anticiparvi tutto quello che di cui parleremo appunto in questa puntata di oggi, lunedì 18 gennaio, vi voglio ricordare i contatti con i quali raggiungervi. Sapete che mi piace sempre farlo, perché è importante tenere un collegamento, come dire, tra la diretta e voi ascoltatori e ascoltatrici da casa o dalla macchina o da dovunque voi siate che ci state appunto ascoltando. Quindi innanzitutto carta e penna, segnatevi il nostro numero di telefono 333 180 9494. Potete mandarci un classico messaggio, quindi un sms come si faceva una volta, oppure anche su WhatsApp o su Telegram se preferite. Io sono qui in diretta che leggo tutti i vostri messaggi, o altrimenti se siete incuriositi dai nostri approfondimenti, dalle nostre interviste, vi consiglio di andare sul sito www.radiocittafujiko.it. Non andateci proprio adesso in questo istante, perché in realtà ora il sito non funziona, ma non ci spaventiamo, perché torneremo online, speriamo il prima possibile. C'è un piccolo disguido tecnico, però segnatevi comunque il sito www.radiocittafujiko.it, perché insomma si spera che nel giro di qualche ora torneremo online anche lì. Nel frattempo, se proprio vi manchiamo, potete anche seguirci sui nostri social, quindi Facebook, Instagram e Twitter. Anche lì siamo sempre attivi, sempre online, lì ancora non ci è saltato niente, quindi ci siamo, e seguiteci per rimanere sempre aggiornati su tutti gli approfondimenti delle varie redazioni, quindi non solo la culturale, non solo approfondimenti culturali, ma anche ovviamente di attualità e politica e di musica. Detto questo, torniamo a parlare un po' di Minerva e di che cosa andremo a parlare oggi. Ho avuto il piacere proprio questa mattina di parlare con Andrea Pedrazzi, che è uno dei collaboratori del Kinodromo, un'associazione che parla di cinema qui a Bologna, che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, stiamo collaborando con loro già da un po'. Quest'anno, nel 2021, per il nono anno consecutivo, Kinodromo sceglie di sostenere ancora una volta Mondo Visione, la rassegna di Cineagenzia e di Internazionale, e presentano appunto tutti insieme al pubblico 5 documentari per riabituarci a guardare oltre con realismo ma insieme speranza. Questi 5 appuntamenti, questi 5 documentari saranno appunto uno al mese, quindi si parte oggi e si prosegue nei prossimi mesi, ogni 15 del mese se non mi sbaglio, e appunto il pubblico di Kinodromo potrà approfondire seguendo le presentazioni e i dibattiti trasmessi in diretta Facebook, che accompagneranno ogni evento, quindi non solo la visione del documentario ma anche approfondimenti e dibattiti curati appunto da Kinodromo sulla loro pagina Facebook. Ma non vi anticipo nient'altro, perché appunto poi ne parleremo meglio nell'intervista realizzata a Andrea Pedrazzi. Ovviamente in questa puntata di Minerva non mancherà la nostra classica agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che si terranno a Bologna o nei dintorni, ovviamente online, non lo ripeto, ma insomma lo sappiamo com'è la situazione, quindi tutti quegli eventi che si terranno oggi lunedì 18 gennaio che hanno anche loro a che fare con la cultura. Ma sono già le 12:35, quindi direi che è arrivato il momento di ascoltarci un po' di musica. Evidentemente questa mattina mi sono svegliata con il nome Johnny in testa, perché nella playlist di Minerva di oggi ho deciso di inserire una canzone di Johnny Nash e poi ne ascolteremo una di Johnny Cash, quindi non so, evidentemente mi sono svegliata così stamattina. mattina. Ora ci andiamo a ascoltare appunto Johnny Nash, il suo successo del 1972, I Can See Clearly Now, che ha raggiunto il primo posto nella Billboard Hot per 4 settimane di fila. Tra l'altro, non lo sapevo, ma Johnny Nash è scomparso, diciamo, proprio recentemente, in questo infausto 2020 che continua a perseguitarci. È scomparso all'età di 80 anni nella sua città natale Houston, e quindi questo, diciamo, che è un motivo in più per omaggiarlo. E ora ce l'ascoltiamo insieme, Johnny Nash con I Can See You Clearly. Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be bright, bright, bright, sunshiny day. Sulle note finali di questo meraviglioso brano di Johnny Nash torniamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Minerva con la voce e la regia di Rachele Copparoni, e appunto siamo arrivati già al momento del nostro approfondimento culturale di oggi. Come vi anticipavo proprio qualche minuto fa, torniamo anche oggi a parlare di cinema con il Kinodromo, associazione bolognese che da anni si occupa appunto di sponsorizzare il cinema mondiale, non solo italiano. Io ho avuto il piacere di intervistare Andrea Pedrazzi, uno degli organizzatori dell'evento, che vede la collaborazione tra Kinodomo, Mondovisioni, che è appunto alla rassegna di Cine Agenzia e Internazionale. Saranno 5 i documentari, quindi 5 gli appuntamenti, uno al mese. Che si potranno vedere appunto tramite le varie pagine di Kinodromo e di Mondovisioni. Cosa importante che prima non ho detto è che la visione, diciamo, di questi documentari, di questi 5 documentari, è a costo, come si dice, insomma, ognuno sceglie un po' quanto poter dare, quanto ha nelle proprie tasche, nel proprio portafoglio, può dare per vedere, per visionare uno di questi 5 documentari. Quindi offerta libera, ecco, non mi veniva la parola. parola, documentari a offerta libera, quindi mi sembra veramente una bella iniziativa, così che ognuno può partecipare con quanto si sente, quanto ha la disponibilità appunto a poter donare a Kinodromo. Si inizia proprio oggi, lunedì 18 gennaio, con O Economia, un'inquietante indagine sulla struttura distruttiva del sistema economico capitalista, che ne svela le regole e mostra come la crescita dell'economia e i profitti siano possibili solo quando le persone si indebitano. A presentare il documentario in diretta streaming insieme ad alcuni membri di Kinodromo ci sarà anche Gianluca Sala di Link Bologna, studenti indipendenti, ci sarà anche Stefano Campanoni di Cineagenzia e Raimondello Orsini, docente del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater, Università ovviamente di Bologna. Gli altri appuntamenti sono invece il 15 febbraio con We Hold the Lines, il 15 marzo con Hong Kong Moments, il 15 aprile con Reunited, e me ne manca uno che mi sono dimenticata di segnarmi, quindi vi invito ad andare sulle pagine di Kinodromo per appunto visionare tutti quanti gli appuntamenti, oppure appena il nostro sito prenderà vita di nuovo su www.radiocittafugico.it speriamo di poter pubblicare l'articolo con l'intervista che ora ci andiamo a sentire e anche tutti appunto gli appuntamenti spiegati per benvenino. Ma non mi perdo troppo in chiacchiere, andiamo a sentire insieme l'intervista che ho realizzato ad Andrea Pedrazzi per Kinodromo. Per il nono anno consecutivo Kinodromo sostiene Mondo Visioni, una rassegna di 5 documentari. Innanzitutto, quando saranno gli appuntamenti e come si potrà partecipare? Allora, sì, gli appuntamenti, come giustamente hai appena detto tu, saranno 5 a cadenza mensile, quindi uno al mese da gennaio, quindi questa sera, fino al 17 di maggio. Saranno ogni terzo lunedì del mese, quindi sulla nostra programmazione che copre tutti i lunedì da qui fino alla fine di maggio, i terzi lunedì del mese saranno dedicati al festival di documentari di Cineagenzia Internazionale con cui collaboriamo per il nono anno consecutivo e che anche quest'anno ci ha permesso di inserire questi documentari di livello estremamente alto all'interno della nostra programmazione, documentari scelti tra i migliori festival dedicati in tutto il mondo, quindi veramente sono un po' il meglio che si può trovare all'interno dell'ambito del documentario. Le serate saranno strutturate come solitamente avviene per la programmazione di Kinodromo, quindi una diretta con dibattito e ospiti a partire dalle 21 sulla nostra pagina Facebook, alla quale seguirebbe la proiezione che eccezionalmente per le serate Mondovisioni non ci vedrà appoggiarci alla piattaforma distribuzione dal basso come facciamo normalmente per la nostra programmazione, ma si potrà accedere alle proiezioni, quindi ai film, ai link dei film in streaming liberamente tramite un link che noi forniremo la sera stessa dell'evento con delle credenziali e quale si potrà accedere con offerta libera, quindi a discrezione degli spettatori, potranno pagare versare una somma a sostegno di Kinodromo e del Festival Mondovisione, totalmente però a offerta libera, quindi non sarà una vera e propria proiezione in streaming, ma sarà quindi la fornitura di un link attraverso il quale le persone potranno vedere in ogni caso i documentari di Mondovisione, decidendo anche poi di sostenere Kinodromo. Noi poi realizzeremo questo evento comunque con le solite modalità, al termine di quella che dovrebbe essere una proiezione in contemporanea con tutti gli spettatori ci sarà il nostro solito Q&A post visione, sempre con gli ospiti, in diretta Facebook, a cui gli spettatori potranno partecipare con domande, richieste, curiosità agli ospiti coinvolti, diciamo, nella singola serata. Certo, quali saranno questi 5 documentari presentati appunto quest'anno? Allora, sì, partiamo appunto stasera con il documentario O Economia di Carmen Osman. Indaga le dinamiche del sistema capitalista contemporaneo, no? È un documentario molto tecnico, questo è giusto dirlo, richiede una certa concentrazione, ma è veramente interessante per la ferocia con cui va ad indagare e a smantellare quelle che sono le strutture che costituiscono questo sistema economico che si basa sulla creazione di un continuo debito, una continua povertà, quindi un ciclo senza fine e che genera delle controtendenze rispetto a quello che poi vorrebbe raggiungere. Perciò è molto interessante per come riesce a esporre in maniera chiara questo concetto, anche per la cattiveria di fondo con cui riesce a far emergere tutto questo. Poi riprenderemo lunedì 15 febbraio con un altro film veramente molto molto potente, che è We Hold the Line, del regista Mark Wies, che indaga in questo caso invece la regime dittatoriale, appunto del dittatore Duterte, nelle Filippine, soprattutto la lotta che la giornalista Maria Risa, che è una giornalista che è stata anche eletta dal Time Donna dell'anno nel 2018, la lotta che cerca di seguire per opporsi al totalitarismo di questo dittatore sanguinario, che già anche prima di essere eletto era famoso per aver esternato anche pubblicamente delle sue idee veramente veramente violente per quanto riguarda la repressione dei traffici di droga, in cui però in maniera anche abbastanza contraddittoria, come si vede nel documentario, è anche coinvolto. Quindi anche qui stiamo parlando di una situazione molto delicata, di un documentario molto molto potente. Successivamente, lunedì 15 marzo, proprio in concomitanza del secondo anniversario con l'inizio delle proteste a Hong Kong, quindi questa è proprio una ricorrenza che cadeva in maniera perfetta, porteremo il film Hong Kong Moment, che appunto ripercorrerà attraverso la vita di alcuni protagonisti che hanno preso parte a queste manifestazioni, quelli che sono appunto gli scossoni, gli eventi che hanno segnato Hong Kong negli ultimi anni, a partire proprio dalla protesta contro la legge di estradizione contro cui la popolazione si è sollevata in massa. Si proseguirà poi lunedì 19 aprile con il documentario United, che invece racconta una storia molto toccante di una famiglia che è stata costretta a fuggire dalla Siria per poi sparpagliarsi per il mondo, perché i due figli sono rimasti bloccati in Turchia, mentre i genitori sono giunti, la madre in Danimarca e il padre in Canada, e ad oggi, o meglio fino a quando questo documentario è stato realizzato, non si sono ancora trovati, e quindi il documentario percorre un po' la loro storia e il modo in cui queste persone cercano di comunicare anche a queste distanze siderali, e sottolineando la loro volontà di volersi ritrovare in futuro. E l'ultimo film appunto della rassegna Mondovisioni sarà, come dicevo prima, lunedì 17 maggio con Picture of a Scientist, che è un documentario che indaga la discriminazione di genere all'interno di dell'ambito scientifico, soprattutto quello americano, e quindi con la testimonianza di alcune scienziate che, pur lavorando al pari dei loro colleghi uomini, hanno dovuto subire un trattamento diverso, fino addirittura delle molestie. Quindi ripercorre un po' il loro percorso di denuncia di questi abusi, fino a quello che è stato un verdetto che ha condannato persone che cercavano in qualche modo di sottometterle. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me And the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Ore 12.50, torniamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM con Minerva e devo dire che con la playlist di oggi sono tornata veramente indietro nel tempo, perché il 4 aprile 1966 Neil Diamond pubblicò Solitary Man come singolo. La canzone era inclusa nel suo primo album, l'album di debutto The Feel of Neil Diamond, canzone tra l'altro super autobiografica. Successivamente, nonostante ciò, vari artisti la riproposero e tra questi vi è proprio l'epica voce di Johnny Cash che abbiamo appena ascoltato, che a mio avviso rende davvero grande onore a un pezzo che apprezzo sempre molto. Per chi non lo conoscesse, anche se dubito fortemente, ma comunque Johnny Cash è un cantautore, chitarrista e anche attore statunitense, interprete di numerosissime canzoni, soprattutto country, folk e anche di celebri talking blues. Tra l'altro, tra un po' di curiosità che ho trovato nella preparazione di questa appunto puntata di Minerva, ho letto che Johnny Cash fu proprio definito The Man in Black in virtù della sua preferenza per questi abiti neri che portava praticamente sempre, e da ciò deriva proprio il titolo di un suo album e anche della sua prima autobiografia. È stato anche, tra le altre curiosità, uno dei pochissimi cantanti ad aver venduto, pensate, più di 90 milioni di dischi. Sono una cifra veramente inimmaginabile, 90 milioni di dischi, però per un grande nome come Johnny Cash, in realtà, come dire, ci si può anche arrivare ad immaginarli. Ancora qualche minuto insieme in diretta prima dei saluti finali, e come sapete questi ultimi minuti sono appunto dedicati alla nostra agenda degli appuntamenti. Oggi vi parlerò di che cosa ci sarà da fare questa sera o questo pomeriggio, quindi oggi lunedì 18 gennaio, tutti quegli eventi che si terranno anche se online, che hanno in qualche modo a che fare con la nostra città. E partiamo dal primo evento alle ore 18 sulla pagina Facebook, quindi anche ovviamente online anche questo, sulla pagina Facebook del Cassero LGBT. L'evento si intitola Perché il femminismo serve anche agli uomini. Si intenterà proprio di rispondere a questa domanda insieme a Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, e Attilio Palmieri, critico cinematografico e attivista femminista. In questo dialogo tra appunto Lorenzo Gasparrini e Attilio Palmieri si risponderà a questa e anche a tante altre fondamentali domande, scoprendo come il femminismo liberi gli uomini dalle dinamiche di forza alle quali sono da sempre costretti. E passiamo ad un altro evento, dalle 17 alle 18.30 presso gli spazi di Porta Pratello in via Pietralata 58. Questo evento in realtà è rivolto ai più piccini, perché per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, e si terrà appunto questo evento intitolato Shh, senti chi parla. Attraverso la narrazione, la manipolazione di oggetti e materiali, la costruzione di ambientazioni, l'allestimento per il gioco teatrale e piccole scenografie, si indagheranno i modi possibili per creare storie e mondi fantastici abitati da creature oniriche, ostacoli e relazioni autentiche. E mi sembrava una bella iniziativa, anche perché penso che di questi tempi i bambini si annoino veramente tanto chiusi in casa. Purtroppo ci sono pochissimi posti disponibili per questo percorso, quindi è necessaria la prenotazione. Vi invito ad andare sulla pagina di associazioni Le Ortiche o sugli spazi di Porta Pratello appunto per informarvi ancora meglio e soprattutto per prenotarvi e per far accedere i vostri bambini a questo interessante corso. E concludiamo con l'ultimo evento, che è una presentazione di un libro online sulla pagina Facebook del Circolo dei Lettori, su circolodeilettori.it e anche sul canale YouTube del Circolo, appunto, sempre dei Lettori. Oggi, lunedì 18 gennaio, dalle ore 18, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, presenta Riscatto Bergamo e Italia, edito da Rizzoli e scritto a quattro mani con Francesco Cancellato. Giorgio Gori sarà in dialogo con Marco Castelnuovo, mescolando biografia personale e politica, analisi sociale, critiche e proposte. Giorgio Gori scava negli errori del passato, anche recentissimo, per delineare la strada per tornare e crescere. E anche se questo in realtà non è un evento strettamente bolognese, perché il Circolo dei Lettori è una realtà torinese, l'ho voluto inserire comunque perché tanto è online, e quindi se vogliamo guardare il lato positivo di questi eventi online è che possiamo raggiungerli anche a distanza. E siamo arrivati alla fine, perché sono le 12:55, quindi fra un po' è il momento della pubblicità, ma poi rimanete sempre sintonizzati sui 103.1 perché torna la diretta con tutte le informazioni, con i nostri GR, quindi tutte le informazioni dall'Italia e dall'estero, per rimanere sempre aggiornati su ciò che accade in Italia e nel mondo. Che dirvi, noi ci sentiamo ovviamente domani, l'appuntamento non cambia, sempre da mezzogiorno e mezza alle 13, sempre per mezz'oretta insieme di chiacchiere, cultura e musica. Anche oggi una bellissima giornata di sole, quindi cerchiamo di godercela, perché non si era mai visto un gennaio così soleggiato qui a Bologna. Buon pranzo, buona giornata, e ci risentiamo appunto domani, sempre da mezzogiorno e mezza alle 13, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ciao a tutti e a tutti. Radio Città Fujiko, e la storia continua.